Buonasera, siamo qui appunto per presentare Michela Bensurda e due suoi libri che sono usciti in tempi recenti in traduzione italiana, in particolare l'ultimo Della compattezza e quello precedente Per una filosofia politica critica, pubblicati dalla Jacca Book. Ricordo che in lingua italiana di Michela Bensurda si trova anche un libro importante, La democrazia contro lo Stato, che è stato pubblicato da Cronopio, e un libro, Hannah Arendt, anche questo di Jacques Book, Hannah Arendt contro la filosofia politica. Questi sono i lavori che sono stati tradotti in italiano. La produzione di Michela Bensurda è molto ampia. Io farò solo un'introduzione bibliografica stasera per lasciare spazio poi al dibattito, poi magari farò io stesso qualche domanda. Ma oltre questi libri tradotti in italiano, vorrei ricordare almeno quelli sull'utopia. Sono tre volumi importanti che sono usciti negli ultimi anni in Francia: L'homme est un animal utopique, Le procès de Maître Rêveur. E da Tommaso Moro a Walter Benjamin, questi tre libri, l'ultimo verrà ripubblicato prossimamente, hanno un'importanza secondo me fondamentale, sono una ripresa del tema dell'utopia caduto in discredito, possiamo anche dire, e che viene reinterpretata in una forma estremamente interessante. Io spero che questi libri verranno anche tradotti in italiano. Vi ricordo che per chi volesse approfondire un tema che Michela Bensurda ha affrontato in molti dei suoi lavori, quello della servitù volontaria, ricordo che Michela Bensurda ha fatto un'edizione storica, diciamo, del discorso sulla servitù volontaria di Étienne de la Boétie. Corredato dal testo ovviamente, ma anche da una serie di saggi che intorno a questo testo si sviluppano, di Lefort, di Gaucher, e anche saggi storici che riguardano il libro di Simone Weil e di altri autori francesi che si sono occupati di questo libro nel corso del tempo. È un'edizione fondamentale. Domani a Roma 3 alle 4, vero Roberto? Ci sarà questo seminario dedicato in modo specifico a questo tema, la Boesia e la servitù volontaria. E quindi chi per caso avesse voglia di approfondire di questo argomento è invitato a partecipare. Io mi fermo qui perché gli interventi sono molti e poi vorrei lasciare a Michela Bensurda il tempo di rispondere a un paio di domande e quindi passo la parola a Giacomo Marramao per la prima introduzione. Ma io sono molto grato a Mario Pezzella di aver promosso questa iniziativa, anzi queste due iniziative. Domani non potrò essere presente purtroppo perché c'è in contemporanea un altro autore francese che è Serge Latouche, che terrà una conferenza la mattina in Aula Magna della nostra facoltà di Lettere e Filosofia di Roma 3, ma poi il pomeriggio sarò impegnato con lui anche per una serie di progetti che abbiamo in comune. Sono molto contento di rivedere Michela Bensurda dopo un incontro che abbiamo avuto tanto tempo fa, su Hannah Arendt e anche su temi, diciamo, variamente connessi alla filosofia politica contemporanea. Ma sono contento anche per una ragione più sostanziale, per numerosi incroci che si danno tra il suo pensiero della politica e quello che io stesso cerco di portare avanti. Incomincio un po' a dirli in maniera molto schematica. Il primo punto è quello che potrei chiamare un distacco non polemico ma problematico nei confronti della vulgata neofucoltiana, cioè che indubbiamente c'è, che ha polarizzato, che sta polarizzando larga parte del dibattito della filosofia politica contemporanea in tante varianti, in varianti fra loro spesso non assimilabili. E sicuramente Foucault, e questo è il pensiero mio, ma anche il pensiero di Abensur, ha rinnovato in maniera profonda il pensiero sul potere, scindendolo dalla sovranità e dunque dalla statualità. Ma quindi procedo come vi ho avvertito in modo molto schematico, ma al caro prezzo di ridurre la politica a un sistema di rapporti di forza. Qui l'autore a cui Foucault si riferisce è un autore che non viene troppo menzionato dalla ripresa neofucoltiana di questi giorni, è Nietzsche, è proprio Nietzsche, è proprio la riduzione della politica ai rapporti di forza in Foucault avviene attraverso un preciso riferimento all'opera di Nietzsche. E come per altro verso avviene in Deleuze, Questo riduzionismo è anche alla base dell'aggancio operato da Foucault con l'opera di Machiavelli. Anche l'opera di Machiavelli viene agganciata sulla base della idea per cui Machiavelli avrebbe scoperto la dimensione della politica come mera dimensione di rapporti di forza, espungendo però la figura del principe. Quindi l'ideale sarebbe, questa è una bella mossa di Abensur, per Foucault bisogna pensare Machiavelli senza il principe, come se, e qui il punto, come se il principe fosse il sovrano obesiano, come se Machiavelli fosse un teorico della sovranità, cosa che viceversa Machiavelli, a mio avviso e penso anche per Abensur, non è. Il problema fondamentale per Abensur è l'evento, quello che lui chiama l'evento della riscoperta del politico. L'evento della riscoperta del politico oltre lo Stato, però, oltre lo Stato. E qui naturalmente abbiamo l'incrocio fondamentale, forse, della sua formazione con l'opera di Claude Lefort, in particolare la fondamentale opera di Lefort su Machiavelli, ma alle spalle di Lefort l'opera di Pierre Clastres, no? Questa figura di antropologo politico molto sui generis, molto originale, che ha elaborato la dimensione della politica contro lo Stato inteso come dominio separato dei grandi contro i molti. Il Machiavelli di Abensur è il Machiavelli di Spinoza, in parte, quello dell'inizio del Tractatus Politicus, in cui, come è noto, Spinoza fa l'elogio dell'acutissimus Machiavellus, pensatore del conflitto della libertà e della vita contro Hobbes, pensatore della paura e della morte. E naturalmente qui l'operazione di recezione di Machiavelli da parte di Abensur è un'operazione duplice. Intanto, prima di dire quali sono i due punti di questa ripresa che Abensur fa di Machiavelli sulla scorta di Lefort, ma anche con delle notazioni molto originali, occorre ricordare che il nostro paese, a parte alcuni lavori pregevolissimi nel Novecento, penso alla famosa monografia di Gennaro Sasso su Machiavelli, ma anche a alcuni altri lavori, e, cioè, l'Italia non è stata la patria di Machiavelli. Cioè, Machiavelli è stato molto più recepito in Francia durante le guerre di religione e poi via via recepito, soprattutto con particolare intensità anche nel corso del Novecento. Non senza conflitti interpretativi molto profondi, non senza contrasti, ma direi che la Francia ha compreso l'opera di Machiavelli prima e meglio di quanto non sia accaduto in Italia. Ora, i due punti della recezione di Machiavelli introdotti da Bensur. Primo punto, il nesso tra democrazia e conflitto, dove abbiamo una ridefinizione della libertà, no? Della libertà come un qualcosa che trova espressione proprio attraverso una idea di democrazia conflittuale, o se volete di democrazia insorgente, il tema della città ardente di Machiavelli, E, se volete, da questo punto di vista qui noi abbiamo una dimensione completamente diversa, se non opposta a quella obesiana, una soluzione che potrebbe essere considerata agli antipodi di quella obesiana. In secondo luogo, secondo punto, il nesso tra libertà e legge. La legge, a differenza di quanto ritiene Foucault, la legge non è necessariamente un dispositivo di dominio, di neutralizzazione, ma la legge può essere anche espressiva della libertà di questa democrazia insorgente. Potremmo dire vi è un elemento intrinsecamente insurrezionale all'interno della democrazia, se noi la intendiamo come democrazia in senso pieno, nel senso machiavelliano della parola. Si apre qui una parte della riflessione di Abensur che in parte anche qui si incrocia con la mia, ma io lo interpreto nel riferire le sue tesi, è una idea completamente diversa di sfera pubblica rispetto alla sfera pubblica così come è stata concepita, come viene concepita dalle teorie democratiche mainstream anglosassoni, sia la sfera pubblica nel senso neocontrattualista alla John Rawls, sia la sfera pubblica nel senso dell'agire comunicativo habermassiano. La sfera pubblica deve essere uno spazio pubblico oppositivo, e qui il richiamo di Abensur, un autore radicale della scuola di Francoforte come Oscar Necht, uno spazio pubblico positivo che sia in grado di accogliere in sé delle esperienze non soltanto plurali, quindi non è soltanto il pluralismo della sfera pubblica, che dire pluralismo della sfera pubblica e fare quella che Hegel chiamava la scienza del cameriere, che la sfera pubblica debba essere plurale, lo dicono ormai tutti e non c'è bisogno di ricorrere al sapere filosofico per saperlo, basta chiederlo a un buon barista, a un buon barman. Il problema vero è una sfera pubblica fatta di esperienze eterogenee, e qui naturalmente è un discorso fondamentale nella pensiero di Abensur è costituito, come vedrò alla fine, dal tema dell'alterità. Uno dei libri che veniva prima citato da Mario Bezzella è Per una filosofia politica critica, un volume che Mario ha curato, tradotto e introdotto in modo egregio, ed è un libro naturalmente che fa insorgere una domanda che lo stesso Abensur si pone, alla quale poi Abensur dà una risposta. Com'è che tu parli di filosofia politica quando tu stesso hai criticato, e io stesso critico tra l'altro, la denominazione filosofia politica, pur avendo insegnato questa disciplina e continuando a insegnarla per affidamento dopo tanti anni? Non è forse vero che filosofia politica è una formula in qualche modo conciliativa, accomodante, un termine in qualche modo che tende ad accademizzare la filosofia scusate, la politica, ricondurla al bios theoreticos, no? Non è forse più opportuno stabilire tra i due termini filosofia e politica un campo di tensione, e questo è l'altro un tema. E io sono convinto, ad esempio, che la vera filosofia politica, tra virgolette, non è quella che ridiscute le diverse concezioni che i filosofi hanno avuto della politica, cosa che è pure utile dal punto di vista didattico e formativo, ma è quella che parte dalle pratiche politiche in atto e cerca di comprendere cosa possano significare dal punto di vista filosofico, cerca di cogliere le ricadute diciamo filosofiche delle pratiche politiche. Bene, e proprio in questo senso mi pare che Abensur intende la filosofia politica critica come qualcosa che è legata a delle dinamiche in divenire e delle pratiche in divenire. E tuttavia la filosofia politica ha qualcosa di originario, cioè il nesso di filosofia e politica ha qualcosa di originario per una ragione che io dico in maniera un po' diversa da Abensur. Cioè, filosofia e politica sono due termini coevi che nascono entrambi a cavallo tra il V e il IV secolo avanti Cristo. La politica è la sostantivazione di un aggettivo, la filosofia, come la intende Socrate, è qualcosa di diverso dalla sofia dei primi pensatori occidentali, cosiddetti pre-socratici o pre-platonici, e la figura di Socrate è proprio introdotta da Abensur come una figura chiave. Socrate è colui che colloca il sapere filosofico nello spazio proprio della città. C'è quel bellissimo inizio del Fedro platonico, che è terribile, però un inizio apparentemente calmo e tranquillo. In realtà dietro la calma delle parole di Socrate si cela una catastrofe spaventosa, quando Fedro, ve lo ricordate tutti, dice a Socrate: è caldo, è estate, usciamo fuori dalle mura della città. Avverte che Socrate non è molto contento di andare via dalle mura della città. Ma come, andiamo a cercare ombra? Fa caldo, un albero ci può proteggere. Lui dice: guarda, vuoi che te la dica in maniera chiara? A me la natura, gli alberi non dicono assolutamente nulla. A me quello che interessa sono le vie, le piazze, le strade delle città, le persone che incontro nella città. È terribile dire: la natura non mi dice nulla, no? Cioè il luogo della filosofia è dentro lo spazio della polis. Dentro questo spazio della polis abbiamo quella che io chiamo, qui tendo ad economizzare i molti argomenti di Abensur, una prossimità distante rispetto ai linguaggi della città, la doxa, alle doxai, no? Dice Abensur: in Socrate abbiamo una rivalutazione in un certo senso della doxa, perché la doxa è qualcosa che ci avvicina ai linguaggi che si intrecciano all'interno della città, contro un'idea iniziatica di verità, quindi la verità come via. Andiamo da qui con un salto che anche Abensur fa ai problemi della democrazia contemporanea, dopo il momento socratico, no? Andiamo, democrazia oggi. La democrazia contemporanea è caratterizzata dal trono vuoto, dalla figura del trono vuoto, un vuoto di sovranità. E da una scomparsa del corpo, da una decorporeizzazione del centro simbolico che dovrebbe animarla, E qui c'è un altro incrocio con un altro autore, anche a me caro, che io ho trattato, Kantorowicz, no? E la tematica del doppio corpo del re di Kantorowicz, che a Ben-Sur declina proprio nei termini del vuoto, no? che starebbe al centro della forma democratica, e che rischia questo vuoto, diciamo, simbolico, rischia che una sorta di trascendentale immanente, lui lo chiama qui con un'espressione che è un ossimoro in qualche modo, può essere riempito da una nuova pulsione verso l'uno, una pulsione che può essere anche totalitaria, la pulsione verso il popolo uno o chi lo rappresenta, l'egocrate in qualche modo, e che può dar luogo esattamente alle forme della servitù volontaria, no? Con la quale lui si accosta a quel grande testo, grande testo di Étienne de la Boétie, sulla servitù volontaria, per l'appunto, che per me è l'altra faccia di Machiavelli, è il rovescio della medaglia di Machiavelli. Qui si affaccia un tema che è stato anche evocato molto bene nell'introduzione da Mario, da Pezzella, i legami che a Ben-Sur intrattiene con alcune riflessioni della scuola di Francoforte, non tanto per quanto riguarda il pensiero della politica, dove la scuola di Francoforte è chiaramente deficitaria, a parte i contributi, diciamo, a partire dagli anni 70-80 di Necht e di altri, ma il contributo soprattutto di Adorno e di Horkheimer, ma di Adorno in particolare, sul nesso che viene a stabilirsi tra questa pulsione all'uno, il popolo uno, eccetera, e la logica dell'identità. E naturalmente il nesso tra democrazia e totalitarismo oggi va in qualche modo declinato in tante forme differenziali. Per un'analisi di queste forme differenziali, a Ben-Sur si rivolge altro incrocio, un altro autore che a me è molto caro, Franz Neumann, il Behemoth di Neumann, dove appunto vi è una distinzione tra le forme totalitarie e le forme autoritarie. Però non dimentichiamo che anche il totalitarismo, che è un fenomeno tipicamente moderno, post-rivoluzionario, come dice Hannah Arendt, è un fenomeno inconcepibile sulla base dei vecchi registri di analisi di cui si avvaleva la filosofia politica, no? C'è reazione, rivoluzione. E, da un certo punto di vista, dice Arendt, i totalitarismi moderni non sono figli di Luigi XIV, ma di Napoleone. Sono prodotto di un'epoca nella quale le masse erano entrate nella dinamica politica. Ultimi due punti del mio commento alle tematiche di A Ben-Sur. La tematica di A Ben-Sur si qualifica, qui siamo in una fondazione fondata da un pensatore militante socialista che parlava, Lelio Basso, che parlava di utopia concreta, e mi pare questo è anche un termine che A Ben-Sur adopera, utopia concreta. Io penso che l'utopia concreta di A Ben-Sur si incroci molto con quello che io potrei chiamare un realismo critico appassionato, come ad esempio quello di Machiavelli, e che molto si collega alla potenza dell'immaginazione, come capacità di andare oltre lo stato di cose presenti. ma è qui il punto fondamentale, io mi riconosco, cioè non mi ritrovo molto nella, anche se è una tematica molto bella, molto, molto suggestiva, nel tema levinassiano del riconoscimento dell'altro. La mia opzione nel contesto dei problemi della democrazia contemporanea come spazio di eterogeneità è la prospettiva di quella che io chiamo una politica della traduzione. Una politica della traduzione che, in cui la chiave della comunità, in qualche modo, dell'essere in comune, arentiano, non è la Verständigung Habermasiana, nel doppio senso, nel double bind, no? Nel doppio senso dell'intesa e come comprensione e l'intesa come accordo, ma piuttosto il fraintendimento. La chiave della comunità c'è dove c'è il misunderstanding, dove c'è il misverständnis e non dove c'è il verständnis. Vogliamo andare avanti nella costruzione della comunità? Dobbiamo partire dalla traduzione di ciò che è conflittuale in ciò che in qualche modo ha una spia nei fraintendimenti. Noi, ad esempio, possiamo adoperare la stessa parola libertà, ma fra intenderci, perché intendiamo per libertà qualcosa di molto diverso, intendiamo per democrazia qualcosa di molto diverso. Una domanda a Miguela Mansur in conclusione. Io ho l'impressione che noi ci troviamo oggi nel questo scenario globale davanti alla necessità di mettere a confronto e eventualmente un programma teorico, ma anche un programma politico pratico, di mettere a confronto due paradigmi della politica, i due paradigmi della politica che abbiamo avuto in Occidente e che sono stati sempre assunti come antitetici o come alternativi, perlomeno. I sostenitori dell'uno sono contro i sostenitori dell'altro e viceversa. Politica come praxis o come processo, Arendt, Aristotele, Arendt, se volete anche Heidegger. E politica come evento, Machiavelli, Benjamin, altro grande autore su cui ci incrociamo. Tra l'altro ci incrociamo anche su un altro autore, non conoscevo prima di ricevere il libro, della compattezza, ma ho visto con piacere che Abensur si sofferma molto in questo libretto su Elias Canetti, che è un autore su cui mi sono soffermato molto anche io nel mio ultimo libretto che gli ho dato oggi. E questo tema, dunque, per concludere, diciamo le due facce della politica, politica come processo, come praxis relazionale, e politica come evento, cioè come capacità di intervenire nella congiuntura. Perché se non abbiamo anche quest'altro lato, la possibilità di intervenire nella congiuntura, quella politica lì, se non abbiamo la capacità, uso un termine delle scritture sacre, non abbiamo la capacità di leggere e decifrare i segni dei tempi, non abbiamo la possibilità neanche di far andare avanti la politica, che è Benjamin appunto questo, se volete. Ebbene, questa eccellenza della politica che nel dibattito contemporaneo si manifesta attraverso l'esigenza, in toni negri e in altri, di una dimensione della biopolitica contro il biopotere. Io che non amo questi termini biopolitica e biopotere, anzi farei pagare una tassa a chiunque operi introduca termini con il prefisso bio e nano, cioè bio e biopolitica, biopotere, nanotecnologie, cose di questo genere, come se fossero degli scibolette che aprono chissà quali porte. Insomma, la politica è sempre stata biopolitica, quindi non il potere è sempre stato biopotere, però vi è sicuramente in questa opposizione l'avvertenza che la politica rappresenta. Ecco, io penso che occorra una, e qui diciamo il senso della domanda che io sto facendo ad Abensur, una nuova teoria del simbolico. Non più leggendo il simbolico in coppia con il reale lacaniano, ma piuttosto con il materiale, cioè vorrei una teoria del simbolico in cui la dimensione simbolica sia con la dimensione materiale, dove il materiale, cioè la dimensione materiale o materialistica, va intesa nel punto di intersezione tra Marx, rapporti di produzione, Weber, la razionalità materiale, dove ci sono le idee forza che costituiscono i soggetti, e Benjamin, che anche questo è un tema caro ad Abensur, il nesso esperienza-povertà, dove c'è la idea della costituzione del soggetto tramite la immaginatio, tramite l'invenzio, anche attraverso l'uso delle tecnologie, come diceva Benjamin. E se si vuole, almeno se ho letto bene la conclusione del percorso ancora provvisorio, ci darà tanti altri testi e prodotti in futuro, ma questa provvisoria conclusione di Abensur, potrei dire che forse entrambi ci rifacciamo a Marx, che consideriamo un punto di non ritorno, ma su un punto forse lo integriamo. Lo Stato si estingue, si sta già estinguendo, durerà decenni, forse secoli, questa estinzione graduale dello Stato. Ma la politica non si estingue. La politica rimane perché è la nostra forma, è la nostra forma propria dell'essere in comune. È la forma propria dell'essere in comune. E in quella idea che Marx aveva della fine della politica, come in qualche modo contemporanea alla fine anche della statualità, delle istituzioni statuali, vi era forse l'idea di un autogoverno dei produttori che non teneva conto che la politica è anche l'avvertenza che tra rapporti di produzione e rapporti sociali, rapporti socioculturali, vi è un diaframma che soltanto la politica è in grado di superare, rendendoci dei soggetti capaci di sopravvivere all'interno della catastrofe planetaria. Tutto qui. Grazie. E adesso do la parola a Roberto Finelli. Dunque, molti sono i meriti di Miguel Abensur e mi riconosco, per riallacciarmi a quello che diceva Giacomo Marramao, nei meriti e di aver riaffermato il valore e la specificità della politica, sottraendola a prospettive riduzionistiche. Perché appunto il politico per Abensur, come diceva Marramao, non si riduce a rapporti di forza, non si riduce alla governance, cioè alla gestione tecnica e contabile dell'atomismo sociale. La politica non è la mediazione neutrale di interessi individuali, come vuole una concezione liberistica e neutrale della governance. E a Bensur, non leggendo la politica in questo modo, la significa in un modo profondamente diverso, sia in termini critici e quando, a partire dall'opera di Claude Lefort, rilegge il totalitarismo e quindi vede quanto il politico sia, proprio perché non riducibile a meri rapporti di forza, profondamente mediato e generato dal simbolico e dall'immaginario. E quindi il politico non è appunto l'economico giuridico di Benedetto Croce, mero rapporti di forza e di potere, ma è un complesso di forze, di proiezioni che hanno a che fare con l'immaginario e il simbolico della mente. Ma soprattutto il politico, per come lo legge a Bensur, è appunto questa profonda connessione originaria che c'è stata tra democrazia e filosofia, come ricordava bene ancora Giacomo su questo, perché lo snodo Socrate-Platone è uno dei luoghi su cui a Bensur esercita maggiormente la sua riflessione raffinata, facendo vedere appunto come Socrate è il luogo della democrazia, perché è una filosofia che concepisce la verità come esito del dialogo, mentre Platone è il teorico di una filosofia che diventa conoscenza del logos. E in questa contrapposizione tra dialogo da una parte e logos dall'altro, appunto, si consuma la trasformazione di un bios practicos, di una vita pratica, dialogica, che vive nella città, nelle strade, con una bios theoreticos che fonda la filosofia come contemplazione dell'idea e contemporaneamente la politica come gestione dei competenti e dei filosofi di contro al demos. Ecco, questa mi sembra una cosa molto importante, questa connessione appunto tra democrazia e filosofia nel senso positivo e negativo, appunto. C'è una filosofia del dialogo che viene soppiantata a un certo punto dalla filosofia dell'idea e del logos. È il passaggio appunto da Socrate a Platone. A me ha fatto molto piacere leggere queste cose di Bensur, perché io mi sono formato a Roma con un filosofo poco conosciuto probabilmente in Francia che si chiama Guido Calogero, che già negli anni 30 in delle opere decisive aveva interpretato tutta la filosofia antica proprio in questi termini, scrivendo delle voci estremamente significative anche sull'Enciclopedia Italiana. Rimanderei proprio alle voci Socrate e Platone scritte da Calogero, che espongono il passaggio dal dialogo al logo proprio in questi termini. Ma qualche perplessità mi muove l'operazione successiva che compie a Bensur, nella connessione tra filosofia antica del demos e del dialogo con la concezione marxiana della politica. Perché, se ho ben capito appunto, l'intento di Bensur, nell'esigenza di affermare una politica come democrazia che è fuori e contro lo Stato, la politica come affermazione di una pratica civile di popolo che è il soggetto fondamentale della sovranità e non consente separazioni, alienazioni e fissazioni istituzionali. A Bensur è legato a questo tema della democrazia insorgente, perché la democrazia nella sostanza non consente la fissità istituzionale, perché l'istituzione è qualcosa che si allontana appunto dal soggetto sovrano. E diciamo questa affermazione di una democrazia insorgente e come insurrezionalità permanente la ritrova nelle pagine del giovane Marx, in particolare nell'opera in cui Marx commenta la filosofia del diritto di Hegel, un'opera del 1843, potendo affermare in questo modo appunto che in Marx non c'è, come vuole la vulgata, una non attenzione al politico o una riduzione del politico nell'economico. Ma in Marx, in particolare in questo primo Marx, c'è una concezione autonoma e positiva del politico, inteso appunto come vita e affermazione del demos. Ora io ho qualche perplessità in questa operazione di trasferimento che a mio avviso Abensur compie del demos socratico nel demos di Marx, perché mi sembra che il demos di Marx, il folk, il popolo, come nelle pagine di quel testo del 1843, rimandi a un impianto fondamentalmente collettivo organicistico in cui non c'è spazio per l'individualità e le differenze, e che quindi in quel Marx ci sia una concezione dell'estinzione dello Stato e delle istituzioni separate a partire da una soggettività troppo fortemente collettiva ed organica che rimanda, io credo, al debito che il giovane Marx ha rispetto all'organicismo di Feuerbach. E questo è un discorso antico e complesso di mille discussioni. Abensur è anche un lettore molto attento di questi testi, perché appunto nel testo che citava prima Pezzella, La democrazia contro lo Stato, lui fa un'analisi molto approfondita sia delle opere del 43 sia delle opere marxiane che precedono il 43, cioè tutti i testi della Rheinische Zeitung, del Marx giornalista. Però a mio avviso, diciamo, questa è la domanda tra l'altro appunto che pongo a Abensur, a mio avviso assegna al concetto di folk di Marx, del giovane Marx, una pregnanza di organicità differenziata di vita che io stento a ritrovare invece in quel testo, di cui tra l'altro mi sono occupato perché l'ho tradotto da giovane in italiano in una versione diversa da quella della Volpiana. Anche perché si aprono, rispetto diciamo a ipotesi del genere, dei problemi molto complicati, perché quel Marx è il Marx che poi legge la politica fondamentalmente come alienazione, sappiamo. Il cielo della politica che unifica tutti i soggetti della società civile come elementi appunto di questa unità statuale, ma solo nel cielo appunto del simbolico. Ora, io credo che quel Marx invece sia un Marx abbastanza debole, che a meno che non gli venga attribuita, diciamo, una potenza di differenziazione vitalistica che trovo nelle pagine di Abensur, per cui Abensur parla dell'indeterminazione del demos, parla della naturale indeterminazione dell'essere umano. Io ho qualche difficoltà a comprendere che cosa significano queste cose, naturale indeterminazione dell'essere umano, a partire da una visione, io credo, la mia più limitatamente materialistica e biologica. Mi sembra cioè che, appunto, per valorizzare fortemente, diciamo, un concetto di democrazia insorgente, ci sia un'operazione su Marx che apre, mi apre delle perplessità. Anche perché poi quel concetto di demos e popolo si trasferirà facilmente nel concetto di classe, con tutte le conseguenze che ne deriveranno di una teoria del comunismo, a partire da una soggettività fondamentalmente collettiva che nel suo collettivismo non ammette e non sa della differenza. Ma se questo non è vero, a Bensur, appunto, ha, diciamo, il compito generoso di spiegarci come accada questo, del perché ci sia questa differenza. Vorrei ricordare, quindi, mi sembrerebbe che c'è un altro luogo fondamentale in cui Marx pensa il politico, pensa il giuridico politico, senza annullarlo e ridurlo, ed è quel famoso quaderno iniziale dei Grundrisse, dei lineamenti di critica dell'economia politica del 57, in cui, lì cominciando a lavorare fortemente sulla connessione tra materiale e simbolico, di cui forse parlava Marramao, dice che il politico, cioè il complesso dei diritti di libertà e di eguaglianza, è solo, insomma, è lo snodo, l'articolazione visibile nei termini del mercato e della circolazione e della cittadinanza di quei rapporti di schiavitù e di dominio che invece reggono sotto la connessione di lavoro salariato e capitale. Perché lì c'è uno snodo tra dominio, schiavitù e invece sua paradossale presentazione come libertà, che è una riflessione sulla libertà moderna, che da Marx viene coniugata costantemente nei termini della libertà giuridica del cittadino come altra faccia della libertà separazione della forza lavoro dal mondo ambiente. E quindi c'è il discorso di una soggettività astratta, perché separata dal mondo, la forza lavoro, che si esprime a livello fenomenico come soggettività libera e individuale. Quindi c'è una rilettura del mondo del diritto da parte di Marx, profondamente connessa con l'economico, in questa connessione appunto difficile tra materiale e simbolico. Ecco, forse è anche da lì che si dovrebbe ripartire una concezione della politica con la quale naturalmente non si può, per chi ha avuto una certa storia, non coincidere con tutte le cose che dice Bensur, appunto, rispetto al fatto che la politica debba essere di nuovo appunto la polis come luogo appunto di una pratica collettiva che vive contro le separatezze istituzionali. Ma abbiamo il compito di riuscire a ripensare come socialità vada insieme con individuazione. E allora, Giacomo dice non al riconoscimento. Su questo forse pure c'è da discutere, naturalmente. Allora, per concludere, ripromettendomi poi casomai di dire qualche altra cosa, va appunto molto bene, veramente ci sono pagine bellissime di Abansur su una concezione non riduzionistica del politico. E su questa operazione estremamente positiva che lui compie, di poter dire che Marx è un pensatore politico anche, e che gli va restituita una dignità di pensatore politico. Se Marx è poi riuscito a pensare i rapporti economici come rapporti non solo di forza, ma come rapporti che generano anche produzione di immaginario, e quindi diciamo una concezione del capitale come processi di totalizzazione, appunto. Però, appunto, tutto questo ho difficoltà a chiuderlo nel fondamento tutto positivo del demos, perché mi sembra che il demos di Abansur riceva per trascrizione storica non consentita un'articolazione di differenze e di mobilità individuali che ritrovo nei dialoghi di Platone giovanili, che ritrovo cioè nel Socrate che attraversa la città, ma che non ritrovo nel folk originale. L'importante è che non si sia fatto male. Forse tutti i libri, forse i libri. È Abansur che si è sparso come un fiore, tutti i libri di Abansur si sono sparsi come dei fiori. Ecco, io mi fermo qui. Passo la parola a Pierpaolo Poggio, che è direttore della Fondazione Micheletti, che ha sostenuto questo incontro, e gli passo la parola. Sì, ma direi che le cose più importanti sono state dette, e forse quando mi ha invitato Mario ho detto prendiamo un esterno, un non tecnico, un non addetto ai lavori, cosa ci ricava da i libri di Abansur, forse era questa l'intenzione. Ma per quel che mi riguarda, con una piccola notazione autobiografica che non conta nulla, ma che io ho trovato molto stimolante questo, soprattutto il libro con la filosofia politica critica, perché per avventura, scusate, per alcuni anni, così per caso, giovanile, io e altri, avevamo trovato in Socialismo Barbarie il nostro punto di riferimento, cioè ci sembrava che ci fossero gli strumenti giusti per capire e per agire. E, però a un certo punto abbiamo visto che non si andava oltre, quell'esperienza si stava chiudendo quando noi l'abbiamo incrociata, e ci siamo scontrati con la fine di un progetto che reputo comunque straordinario. E qui ho trovato una via, uno sviluppo, una possibilità di tradurre nelle esigenze attuali quello che in quegli anni 50 soprattutto, in contributi fondamentali di, particolarmente di Leforte, di allora noi lo chiamavamo Castoriadis o Castoriadis, Chaliot, Cardin, eccetera, erano questi i riferimenti. Ecco, poi allora io mi limiterei a un paio di considerazioni che concernono l'importanza dell'analisi che Abansur fa sul tema del totalitarismo in un'ottica di aggiornamento storiografico. È un tema frequentatissimo, però che si fa fatica in realtà a portare ad una come dire, a farne un vero strumento di interpretazione del totalitarismo novecentesco e di quello che è seguito dopo. La prima cosa che sottolinea Bensur, e qualcuno qui l'ha già ricordato, è la collocazione totalmente moderna, la modernità del totalitarismo. Qui ci sono dei problemi, perché lo sforzo della storiografia prevalente, non solo in Italia, in realtà è andata in un'altra direzione. Nel caso del fascismo c'è stata una rivendicazione della modernità del fascismo, cioè il fascismo come evento che modernizza questo paese. Quindi è una lettura positiva del fascismo, quella che si è affermata in Italia, che sconcerta chi ci vede da fuori, però è così, è passata questa io qualche giorno fa, no, qualche settimana fa, leggevo questo libro, leggo quasi mai romanzi, ma questo Canale Mussolini, no? E questo è un libro esemplare da questo punto di vista, e che l'opinione pubblica, i lettori di sinistra, progressisti, tutti entusiasti non tanto delle qualità letterarie, ma del messaggio che questo libro da Canale Mussolini è un'esaltazione della valenza modernizzatrice, realizzatrice del fascismo italiano. Questa interpretazione della modernità, cioè della modernità in positivo del totalitarismo, vale ancora per... Non mancano ancora oggi gli estimatori, come dire, dell'esperienza sovietica letta in questa ottica. Quindi è molto importante capire anche come questo concetto, e forse io lo uso in modo inesatto, c'è una servitù volontaria alla ideologia, no? Che consente ormai non tanto, a mio avviso, un uso pubblico della storia, ma un uso privato della storia, quindi grandi fantasticherie che vengono costruite attorno a questo nodo irrisolto del totalitarismo novecentesco, nel caso italiano un totalitarismo debole, nel caso nazista lo sappiamo è altra cosa. Ecco, quindi io penso che sia importante se gli storici si confrontassero con la lettura che propone Bensur, passando attraverso Lefort, Arendt e quant'altro. Prendete il caso del totalitarismo sovietico, che è quello su cui Lefort e altri hanno insistito di più. Guardate che ancora oggi la tesi prevalente è che quel guaio che è successo lì è dipeso dalla arretratezza di quel paese, sono le masse contadine che hanno impedito di realizzare il progetto comunista fino in fondo in Unione Sovietica, quindi è una legittimazione in fondo che viene ancora riproposta. Nel caso del nazismo è più difficile, perché il paradigma del nazismo come patologia della modernità si è sostanzialmente affermato, no? Però torna ancora la tesi, che in fondo io considero razzista, della peculiarità germanica, cioè è quel percorso particolare che fa la Germania, che produce il guaio totalitario. Quindi, ma perché tutto questo lavorio per decostruire la portata epocale assiale del totalitarismo nella modernità? Io credo che questo sia un interrogativo che lavori come quello di Abensur, che hanno un taglio sicuramente filosofico, di filosofia politica, però ci ripropongono. Aggiungo alcune cosette seguendo i miei appunti, così non perdo troppo tempo. Nel caso del totalitarismo sovietico, io penso che abbia ragione, se capisco, a Ben-Sur a seguire in questo l'ARN, cioè dire che in quel caso il noi totalitario è interpretato sostanzialmente dal partito piuttosto che dal popolo. Non è mai esistito un popolo sovietico, e solo perché il partito aveva quella funzione, aveva quel significato, aveva quella portata, si capiscono i comportamenti e i processi di Mosca. Ma mica si capiscono solo i comportamenti e i processi di Mosca, si capiscono i comportamenti interni ai partiti comunisti, anche il partito comunista italiano. Cioè non si può contraddire il partito, perché è espressione della logica della storia. Cioè questo è una contraddizione insostenibile per chi ci ha vissuto lì, e quindi accetta questa servitù volontaria come l'unica via d'uscita per non come dire, distruggere la propria esistenza. Molto importante e molto brillante anche il saggio praticamente sull'architettura nazista, partendo dal ruolo di Albert Speer, no? Qui si dimostra che l'architettura monumentale nazista, come fine di rendere compatte le masse, contrastando la dissoluzione del carisma, il rischio che venisse meno l'alleanza fusionale tra il Führer e il popolo razza. E allora la monumentalità nazista, no? Lungi appunto dal creare uno spazio pubblico politico, si pone come obiettivo l'asservimento della massa estromessa da qualsiasi esperienza politica. Quindi, lungi dal creare il pubblico, produce il massiccio e il compatto, la ricerca di una coesione assoluta. Ecco, c'è una citazione di Speer che è illuminante: la sottomissione della volontà individuale e la rinuncia a essa come obiettivo dello Stato trovarono manifestazione nell'architettura. Ecco, però, se questa citazione, che mi sembra postuma, cioè successiva al periodo nazista, la confrontate con la citazione che riporta da Paul Nizan del 1934 sull'architettura sovietica, la cosa è impressionante. Cioè, quindi, cosa significa questo? Che lo sforzo della cultura di sinistra di separare totalmente questi due poli e di negare l'utilizzo della categoria di totalitarismo nei confronti dell'esperienza comunista sovietica è invalidante, totalmente pone la cultura di sinistra in una situazione di debolezza strutturale, di incapacità di andare oltre, e quindi la spinta a ritornare sempre all'interno di questi elementi che non sono stati superati, metabolizzati. Salto altri temi storiografici che pure sono molto, molto interessanti: l'uso che Ben-Sur fa di un autore straordinario che è già stato citato, Neumann, che ha rappresentato il principale punto di riferimento per le migliori interpretazioni storiografiche del nazismo, cioè le interpretazioni che sono state capaci di decifrare che cosa significa la spirale di radicalizzazione crescente che si è manifestato in quel brevissimo arco di tempo. Ecco, questo è uno strumento decisivo per capire la fisiologia interna del totalitarismo, ma anche qui non funziona la separazione. Poniamo tutte le distorsioni, bisogna distinguere, benissimo, ma come si fa a non vedere che lo stesso meccanismo funziona quando Stalin, dopo la vittoria del 45, quando tutti si aspettavano che ci sarebbe stato un momento di distensione, di ripresa, di possibilità di respirare da parte della società, eccetera, una radicalizzazione fortissima dopo la vittoria. Ecco, quindi questi meccanismi, queste omologie tornano. Benissimo, però qui, ecco, adesso dico alcune cosette che non ho trovato all'interno di quello che ho letto, che mi sembra interessante. Ma allora, questo movimento è una specie di distruzione creatrice, ma questa distruzione creatrice non è insediata nel cuore, nel normale funzionamento del capitalismo? Cioè, quindi va benissimo, distinguiamo i totalitarismi tra di loro, distinguiamo il totalitarismo dal capitalismo, ci mancherebbe ancora, ma qual è il perimetro storico dell'esperienza totalitaria? Cioè, vuol dire, è una fase storica finita, chiusa, nella prima metà del Novecento, o ci abbiamo ancora a che fare? Scrive Bensoul, chi si occupa del totalitarismo si occupa dell'apoliticismo, della sua genesi possibile. Nell'odio per la politica, nella spinta a liberarsi dalla politica, egli scorge la sopravvivenza di comportamenti che hanno alimentato l'esperienza totalitaria. Bene, ma allora ci siamo. Cioè, è ancora un problema di oggi. E Mario Pezzella nell'introduzione, prefazione, dice: non può esserci vera democrazia senza interruzione del potere astratto del capitale. Quindi la democrazia insorgente è la risposta. E appunto, a Bensoul è molto attento a distinguere capitalismo da democrazia, il capitalismo non è uguale a democrazia, il capitalismo non è uguale a totalitarismo, tutto bene. Ma tra democrazia inautentica, sottomessa appunto al movimento astratto del capitale, la democrazia ridotta a quella che noi vediamo come governance al massimo, il massimo risultato, è una cosa, lo Stato autoritario, l'altra cosa, tentazioni totalitarie. Allora, qual è lo spazio per la democrazia insorgente? Qual è lo spazio per la politica come è stata qui proposta, in termini molto alti? Il superamento della politica, che non può essere ridotta al potere e il potere al dominio, viene criticato in quanto regressivo. Lo spazio della politica deve essere mantenuto in quanto è quello stesso della libertà. Okay. La politica come conflitto e opposizione al dominio e alla democrazia vivente, la forma politica della emancipazione. Ma ecco qui un punto che a me ha colpito ancora, che rimanda all'ultimo capitolo, ma del libro che citavo prima. Dice Bensoul, quando la politica si manifesta nella sua forma autentica, sorgono subito prospettive metapolitiche, utopiche, progetti di creare tra gli uomini forme inedite di legami, relazioni mai prima esistite. È l'ipotesi stravagante. Ecco, io questo l'ho avvertito come una rottura del discorso che è stato condotto sino a quel punto nel lavoro di Bensoul. Un'ultima, se volete, considerazione. Io trovo che probabilmente qui c'è un passaggio da una sfera propriamente politica a una sfera, chiamiamolo, metapolitica. Okay. Comunque si insiste molto su questo diverso legame con gli uomini, ma non c'è nessun riferimento a un diverso rapporto degli uomini col loro contesto, natura, ambiente, come volete. E quindi non c'è il tema, che personalmente avverto come impellente, di un superamento di che cosa? Beh, dalla civiltà industriale. La civiltà industriale non sta più in piedi. Questo superamento possiamo costruire attraverso uno sviluppo ulteriore della tecnica? Ma la democrazia che ha a che fare con tutto ciò? Cioè, io credo che qui sia un punto cruciale, perché altrimenti la democrazia, quale che sia la forma che assume, insorgente, diretta, consigliare, tutto quello che volete, deve confrontarsi con questa problematica. Non possiamo aggirarla, io credo. E quindi come si pone il problema tecnica-democrazia? Nei termini che lo poneva Heidegger? Non penso, perché questo significherebbe vanificare tutto questo sforzo di elaborazione, di interpretazione, di superamento dell'impasse in cui ci troviamo. C'è un riferimento stimolante a questi movimenti, no? Che non sono totalizzabili, che si manifestano perché sono, cito, nati da fonti molteplici di socializzazione e si alimentano della loro propria specificità assurda, è perfino rivendicata, essere rifiuto ogni forma di soggetto unificante, eccetera, eccetera. Li conosciamo, è questa la democrazia in sorgente? Come possono fare, come dire, affrontare la sfida che hanno di fronte? Io credo che questo sia un punto molto importante e che potrebbe essere soprattutto un elemento per dare coscienza, consapevolezza, forza a movimenti che esistono ma che non hanno un orizzonte. Un'ultima cosa che mi ha incuriosito è come mai nel libro, ma può darsi che questo invece dipenda solo dalla mia ignoranza, che poi in altri libri il confronto ci sia, il riferimento è alle Fort, ma Castoriadis o Castoriadis, come volete, non so esattamente qual è la pronuncia corretta, non ha lavorato moltissimo proprio sul tema filosofia e democrazia che nascono insieme in Grecia, come messa in discussione di ciò che è istituito socialmente, e che quindi ha lavorato principalmente il tema, attorno al tema verità e politica? Questo riflette l'antica rottura tra le forte Castoriadis, oppure perché non è un pensatore come dire, così stimolante rispetto a quelli che Bensoura ha individuato come suoi referenti? Scusate un po' di confusione. Grazie, ora io ho il compito abbastanza difficile di sintetizzare le questioni più importanti in francese, in modo che Miguel Bensoura possa rispondere. Ora, io mi sono segnato tre punti problematici e a questi mi limito, mi scuso con quelli che sono intervenuti, ovviamente non posso riprodurre l'articolazione e la complessità del discorso che hanno fatto. Per quanto riguarda, pour ce qui a affaire avec l'intervention de Monsieur Giacomo Maramao, le point sur lequel je voudrais vous poser une question, c'est sur le rapport avec Levinas. Sur le thème fondamental de la reconnaissance. Alors, Maramao a exprimé quelques perplexités sur la possibilité de reprendre le thème de la reconnaissance dans les termes proposés par Levinas. Et la question pourrait être, comment pouvez-vous éclaircir ou expliquer ou nous donner une idée de cette relation de votre pensée au thème de la reconnaissance de l'autre dans Levinas. La deuxième question, je la prends de l'intervention de M. Finelli. Il a parlé surtout de votre livre sur la démocratie contre l'État. Et le problème, c'est ce que vous appelez indétermination du démos. C'est-à-dire que, à son avis, dans le texte de Marx que vous avez considéré, il y a le danger d'une fusionnalité dans l'un, d'un collectivisme organique qui met en danger un peu la pluralité, la différenciation que vous proposez par ailleurs. Et d'ailleurs, il pense lui aussi qu'il y a d'autres œuvres de Marx, par exemple les Grundrisse, qui sont plus proches à cette perspective que vous proposez. Donc la demande pourrait être ainsi formulée, on peut, à propos de ce texte de Marx, parler d'un fondement complètement positif du démos, où ce démos ne menace pas-t-il de se résoudre dans une forme d'unité, de tomber dans l'un, etc. Vous avez compris. Et enfin, la troisième question, je la reprends de l'intervention de M. Poggio, et ça a à faire avec le totalitarisme. Il a parlé d'une interprétation qu'il y a maintenant entre les historiens qui cherchent de réévaluer les totalitarismes en tant que phénomène de modernisation, en particulier le fascisme italien. Surtout, il a proposé le problème du rapport entre totalitarisme et capitalisme en général et démocratie insurgente et capitalisme en général. C'est-à-dire, comment on peut concevoir une vraie démocratie sans avoir éclairci le rapport entre la vraie démocratie et la survivance ou non du capitalisme. Et dans ce contexte, comment on peut penser la vraie démocratie dans son rapport à la technique? Parce que probablement, une vraie démocratie, c'est aussi un dépassement de la civilisation industrielle telle que nous la connaissons, avec la technique telle que nous la connaissons, avec le rapport de cette technique à la nature telle que nous la connaissons. Et donc, comment il faut penser, disons, une vraie démocratie par rapport à ces deux termes, technique, capitalisme? Bon, d'abord, je tiens à remercier Mario Pezzilla et ses collègues de leur invitation et la Fondation Lelio Basso. J'en profite pour évoquer une rencontre que j'ai eue avec lui quand j'étais jeune encore. Et il est venu à Paris parce qu'il avait le projet de faire une encyclopédie des utopies. Voilà, et nous nous sommes rencontrés à ce propos. Alors, sur les questions qui m'ont été posées, d'abord ce que je voudrais dire, enfin ça déborde un peu ce que vous avez retenu, mais ce que je voudrais dire, ce que j'ai tout à fait apprécié, en tout cas c'est dans ce sens-là que moi j'ai travaillé, c'est que justement Foucault a une interprétation de Machiavel ultra classique, même on pourrait dire banale. Et ce n'est pas parce qu'il envisage de supprimer le prince que de garder seulement les rapports de force qu'il a vraiment compris Machiavel, alors qu'au fond, l'idée de Machiavel comme penseur des rapports de force est fausse, dans la mesure où c'était les penseurs à qui s'opposait Machiavel qui pensaient la politique comme un ensemble de rapports de force. Alors, sur la reconnaissance de l'autre chez Lévinas, c'est pas vraiment pour approcher Lévinas. Le point pour approcher Lévinas, ça a été la question de l'utopie. Puisque ce qui m'a paru tout à fait étonnant chez Lévinas, c'est que, bon, bien évidemment, il n'a pas fait d'utopie, il n'a pas écrit d'utopie, mais il a participé à ce que j'appelle le nouvel esprit utopique au XXe siècle, c'est-à-dire une théorisation de l'utopie ou une pensée de l'utopie. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il a écrit sur Buber, qui a écrit un livre important sur l'utopie, Chemin en utopie. C'est Lévinas qui a fait la préface. Il a beaucoup travaillé sur Ernst Bloch. Alors il y a un texte qu'il a fait dans le volume Utopie et marxisme, mais surtout dans les cours de Lévinas à la Sorbonne, on s'aperçoit qu'il y a énormément de réflexions sur Ernst Bloch et sur la pensée de l'utopie chez Ernst Bloch. Et le troisième point qui m'a paru très important chez Lévinas, et ça apparaît dans le texte, le livre qui s'appelle « De Dieu qui vient à l'idée », c'est au fond qui fait un rapport entre l'époque et le désir d'une société meilleure. C'est-à-dire qu'au fond, il montre qu'il ne peut pas y avoir d'utopie sans époque. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant chez Lévinas. Quant à la question de la reconnaissance, je ne crois pas que ce soit en termes de reconnaissance que le problème se pose chez Lévinas, puisque finalement, l'autre s'impose à moi. C'est le visage de l'autre. Dans la reconnaissance, il y a l'idée d'une égalité. On est à peu près sur le même niveau, où on essaye justement d'arriver à un même niveau. Alors que chez Lévinas, dans la mesure où justement il prend ses distances à l'égard de Buber, à qui il reproche la réversibilité, l'autre est toujours au-dessus de moi. Donc nous sommes, je crois, dans un... alors bien évidemment, l'utopie se pense en fonction de la question de l'autre, mais je ne crois pas que nous soyons dans une problématique de la reconnaissance. Voilà, est-ce que j'ai suffisamment répondu? Alors, sur la deuxième question, à propos de la démocratie contre l'État et la détermination du démos. Alors, la critique que vous nous faites, hein, si j'ai bien compris, je la fais à Marx. Hein. Quand je parle de l'idée d'un présent, d'une espèce de manifestation toujours présente du démos, je critique cet aspect-là. Hein. Et même si je critique l'idée de démos total, qui me paraît relever d'une certaine manière de penser la subjectivité. Hein. Donc je n'ignore pas cela du tout. Hein. Quant à l'indétermination du démos, je vous répondrai avec Michelet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité du peuple. C'est-à-dire que le peuple est toujours au-dessus de lui-même, hein, c'est la fête de la fédération, mais il peut être aussi au-dessous de lui-même, et c'est les massacres de septembre. Hein. Donc je veux dire, je crois que c'est, pour employer un concept contemporain, si identité il y a, c'est une identité non identique. Hein. Et donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on essaierait d'enfermer Marx dans l'idée d'une organicité. Hein. Je ne pense pas du tout que ce soit dans la pensée de Marx. Ce que je consens à penser, c'est qu'effectivement, l'idée de démos total est quelque chose de problématique et qui peut mener effectivement à l'idée du peuple un. Hein. Ça, je suis tout à fait d'accord avec cela, mais je crois que dans mon texte, je me suis efforcé de prendre mes distances et d'ouvrir un espace critique. Alors, ce qu'il y a dans le texte de 43 à la fin, c'est quelque chose d'assez troublant, parce qu'il parle de l'un, mais il peut parler de l'un aussi au pluriel. Hein. C'est comme si tout à coup... Mais je n'ai pas pu, parce que d'abord, il y a deux, trois lignes, pas plus. Hein. Alors, je ne me suis pas lancé dans cette recherche, mais on a comme ça tout à coup l'impression que la pensée de la Boétie ne lui est pas étrangère. Hein. Mais je n'ai pas voulu aller plus loin parce qu'on aurait pu m'accuser d'être obsédé par la Boétie et par le texte de la Boétie. Mais je pense que quand même chez Marx, je ne pense pas du tout qu'on puisse aller du côté de l'organicité. Ça me paraît qu'on puisse aller du côté d'une valorisation de l'un, ça, je pense que l'idée de démos total prête à ce genre de critique. Hein. Mais de cela, par rapport à cela, j'ai pris mes distances. Alors, ce que je crois qu'il faut aussi, c'est ce que j'ai essayé comme hypothèse dans ce livre, c'est de dire qu'au fond, il y avait une dimension souterraine chez Marx, qui était apparue en 1843, de façon évidente, mais qui d'une certaine manière circule dans ses écrits de journaliste. Hein. Je pense que si on voulait vraiment s'interroger sur le concept de politique chez Marx, il faudrait prendre toute son œuvre journalistique, hein, et qui est parce que ce qui est quand même très très étrange, c'est que si on prend par exemple la critique de l'économie politique avec ce passage canonique où il nous explique comment le politique est du côté de la superstructure, dans la dépendance de l'infrastructure, etc. Hein, mais si on prend les textes qui rendent compte d'un événement, je pense par exemple aux 18 primaires de Louis-Napoléon Bonaparte, on s'aperçoit que Marx a tout à fait d'autres systèmes de pensée pour rendre compte du politique, et notamment il accorde une très grande importance à l'imaginaire, hein, puisque quand il parle du costume romain au moment de la Révolution française et de la Révolution anglaise, qui s'est la première Révolution anglaise qui s'est effectuée dans un langage prophétique par rapport avec la Bible et le thème de la Nouvelle Jérusalem. Donc le Marx que journaliste ou qui rend compte d'un événement a une conception beaucoup plus complexe de la politique que le texte canonique que nous connaissons tous. Hein. Donc ça, je crois qu'il faut tout à fait en tenir compte. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que je pense que cette dimension qui est apparue dans le texte de 43, et cette chose qui, quand même, moi, me paraît très importante, c'est cette idée que la démocratie n'est pas un régime politique comme que les autres, parce que dans l'irruption démocratique, dans le moment démocratique, il y a une séparation par rapport à l'État. Et c'est-à-dire que finalement, Marx refuserait cette expression d'État démocratique. Et ça, je crois que ce qui est important, c'est que si on renverse, est-ce qu'on peut penser une démocratie étatique ? Je veux dire, l'expression de démocratie étatique, elle n'est pas acceptable. D'une certaine manière, on dit qu'est-ce que c'est qu'une démocratie étatique ? C'est-à-dire une démocratie qui serait enfermée dans le cadre de l'État. Donc je pense que le grand apport de ce texte, c'est d'avoir ouvert une brèche entre la démocratie et l'État. Et je pense qu'on retrouve ça dans le rapport de Marx à la Commune de Paris, une fois d'ailleurs qu'il a dépassé son nationalisme, parce qu'il pensait que pour lui, c'était la guerre de 70, c'était une bonne manière de flanquer une raclée aux proudhoniens français. Bon, mais une fois que tout ça a été dépassé, dans la manière dont il rencontre de la Commune de Paris, avec une expression, par exemple, qui est tout à fait étrange, il dit la constitution communale. C'est-à-dire comme si, au fond, l'idée du communal était justement une manière de ne pas employer le terme étatique. Il ne dit pas la constitution étatique, mais parce que la constitution communale, parce que, au fond, la commune, c'est ce qui, non pas cherche à s'emparer de l'État, mais cherche à le briser ou cherche à lui substituer une autre forme de communauté politique. Et là, je pense que, tout au moins, on peut en discuter, qu'il y a une relation entre le texte de 43 et la manière dont il rencontre de la Commune de Paris dans l'adresse internationale. Est-ce que j'ai répondu à votre... Bon. Et puis, alors, sur le totalitarisme, sur vraie démocratie et capitalisme, je n'ai jamais dit qu'il fallait ignorer les rapports de la démocratie et du capitalisme. Ce contre quoi je m'insurge, c'est un discours qui nous est très contemporain, à savoir que capitalisme et démocratie vont ensemble. Alors que je pense que si effectivement, historiquement, capitalisme et démocratie ont pu apparaître, là, il y a quand même quelque chose dans la démocratie, il y a un reste qui est irréductible au capitalisme. Et il y a quand même, dans l'histoire démocratique, il y a eu quantité de moments qui ont manifesté une volonté d'envisager d'autres rapports de production que le capitalisme. Donc je ne pense pas qu'on puisse associer cela. Alors, je n'ai jamais prétendu ignorer la question du capitalisme ni la question de la technique. D'autant moins que quand j'ai fait ma thèse, j'ai travaillé sur William Morris, qui justement est un des premiers à avoir posé la question de savoir comment, dans une autre forme de société, que lui appelait à l'époque, non pas vraie démocratie, mais qu'il appelait le communisme, comment dans cette forme de société, justement, on aurait un autre rapport à la technique. Ce qui d'ailleurs est toujours très, très mystérieux chez William Morris, parce que il y a l'interprétation classique qu'on trouve dans toutes les encyclopédies du monde, à savoir qu'il avait une pensée médiévaliste et qu'en ce sens-là, il était réactionnaire et qu'il n'était pas à la hauteur du socialisme moderne. Je crois que c'est une vision qui me paraît courte. Il y a des choses, par exemple, dans les nouvelles de nulle part, on voit des bateaux qui circulent très vite, etc. Bon, on ne sait pas ce que c'est exactement, donc il y a une espèce de blanc là-dessus, mais je pense que simplement, il envisageait, comme le faisait peut-être qu'on peut mettre un rapport avec Benjamin, c'est-à-dire il y a deux formes de techniques possibles avec deux rapports à la nature possibles. Donc je pense qu'effectivement, si vraie démocratie il y a, c'est pas une vraie démocratie avec survivance du capitalisme, hein, ça, je suis très clair là-dessus, si vous voulez me faire dire cela, et d'autre part, je pense que, justement, le propre d'une démocratie, c'est de poser, de vivre les différentes questions dans la dimension de la problématicité, hein. Et que donc, d'une certaine manière, la question de la technique, du rapport à la nature, etc., c'est une des questions qui alimentera la vivacité et la vie de la vraie démocratie. Alors, sur le totalitarisme et le capitalisme, bon, vous savez comme moi que la question est extrêmement complexe, parce que, par exemple, au moment de... si on prend la réaction dans l'école de Francfort, face à cette question, on voit bien qu'il y a deux camps, hein. Il y a d'une part le camp de Horkheimer, Pollock et Adorno, qui pensent que le national-socialisme est un nouvel ordre et qui correspond à un capitalisme d'État, hein. Et puis, il y a le camp de Neumann et de Kirchheimer qui, eux, pensent que simplement le nazisme correspond à un capitalisme de monopole. Hein. Mais ce qui me paraît quand même plus... la thèse d'Horkheimer et de Pollock me paraît une thèse plus stimulante, hein. Même pour la recherche historique. Alors, loin de moi, c'est-à-dire, je pense que par rapport à la question du totalitarisme, et peut-être que je n'ai pas assez insisté dans mon travail, mais parce que c'est que on a vu ce thème apparaître dans Socialisme ou Barbarie, mais avant Socialisme ou Barbarie, c'est la gauche allemande qui a pensé la première, le totalitarisme. Hein. C'est pas les libéraux, c'est ni Raymond Aron, ni le congrès le colloque de 1950 aux États-Unis. Hein. C'est pas Otto Rull, par exemple, a critiqué le totalitarisme très tôt. C'était une critique du bolchevisme au nom, par exemple, soit du conseillisme, soit du luxembourgisme, etc. Alors ça, on oublie toujours cela. Et d'autre part, je crois que si effectivement on peut mettre en rapport jusqu'à un certain point sous le couvert du terme totalitarisme, le nazisme et puis le stalinisme, je crois que la grande différence quand même, hein, et ça me paraît très important, c'est que dans ce qui est arrivé en Union soviétique, il y avait un rapport à un projet d'émancipation, hein, tandis que dans ce qui est arrivé dans le nazisme, il n'y a jamais eu une idée d'émancipation quelconque. Hein, c'est l'idée de la domination universelle. Et ça, je crois que quand même, c'est très important de maintenir cette différence entre les deux, ce qui ne veut pas dire de refuser le concept de totalitarisme, mais en tout cas, savoir le modaliser. Voilà. Je sais pas, merci.